Siete dei succhiasangue, non avete diritto di vivere. Mi incaricherò subito di questa missione. Ci sono già uscito di sotto più volte. Facce di cazzo, sguardi strani, questioni risolte. Molte sono andate a vuoto, mentre riscuoto. Solo calci in culo e gente trama le mie spalle. Niente di sicuro e nuoto nella frustrazione. Qual è la giusta azione? L'unica del resto è non raccontarsi balle. Cercare solo un pretesto, lasciare a casa l'ansia, uscire con mazze da baseball. Ehi, yeah, la mia anima è divelta. Vivere e morire qua non sarà la mia scelta. Belta, guardo, ormai ho più di 21 anni. Fondo più non bastardo, non so dove avventurarmi. Non farmi pensare a chi mi ha calpestato. Non so se augurargli un altro stato. Salto fra tolleranza e sudoltranza. Rimane aperto, chiudi il quarto lato del quadrato. Estravaganza da ring, niente drammi. 64 gli esagrammi, tre monete nelle mie armi. Un microfono e una lingua. Se non mi basterà l'inching, c'è da togliersi la cinghia. Cinghiala all'assalto, doppia goccia e doppio malto. Animali nella giungla provano a farti lo scalpo. La donna è tutto ciò che hai. Reagire coi meccaniche ormai, right, right. Tementi di questa città, la sua realtà. Piazza gente risse, la gente che ci sta. Qui ci vivo soltanto, non fa per me. La vostra vita vuota ignoranza che c'è, cos'è? Gente vive ammazzando, fasci, pusher, infami, borghesi, luridi, cani, merda e sassaresi. Due cosci sulle torri che stanno crollando. Le vie sono piene di cazzoni con magliette guru, scarpe da box, sicuri come a Fornox. Siete voi in picca bob e magna gaura. Verrete tutti hoot e lo muro subito dopo l'happy hour. Io non credo al vostro orgoglio, al vostro dio. Sono arte più che laico, compreso sopra un platano. Vi parlo in aramaico, sai come va qui. Bottiglie che spacchi, scarri più pacchi. Nacqui in un posto che ora mi appartiene, quanto coccodrilli nel Kentucky. Ho bolle d'aria nelle vene, a chi? Siete tutti macchi, donne coi tacchi. Voi forzati in due o tre stronze, camicie per bene. Continuerà ad andare avanti, basta nause, basta pause. Io non sono di sto pianeta, mi hanno trovato che vagavo solo senza meta come Kaspar Hauser. La sola comunità che c'è qui, se va a molare le spade, di che siete fieri, di ciò che accade nelle strade, delle vostre contrade. C'è un sai mascido, fuoco e piscio sopra i candelieri. Talmente avanti che stanotte sembra ieri. Gente ignorante ascolta e brucia entrambi i suoi misferi. So perso la via giusta, cerco altri lì dei sentieri. Non ti cura di sti bastardi, ma uccidili. Tenete di questa città, la sua realtà. Piazza gente risse, la gente che ci sta. Qui ci vivo soltanto, non fa per me. La vostra vita vuota ignoranza che c'è, cos'è? Gente vive ammazzando, fasci, pusher, infami, borghesi, luridi, cani, merda e sassaresi. Due cosci sulle torri che stanno crollando.